io vieni appena che trovo un attimo di tempo, devo andarci all'ufficio collocamento per vedere un po' la mia situazione, com'è, a chi noi gli stiamo andando tanto vego come compare. Insomma, non mi intruscia. Ci stare al mare, lei è 93, quello che l'abbina fa il Movicom, già sai tu. Com'è il livello? Va bene o posso anche alzare? Dimmi un po' così non lo tocco più. Per alzarlo, così ti lo sai per certo come lo devi mettere, basta, prova alzarlo. Ma al minimo con questo, guarda un po', 1, 2, 3, prova l'aria. Va bene, va bene. Lo puoi alzare anche di più, vediamo un po', va. Per la metà adesso, no? Perché al mare sono lontano, mi devo far sentire. Qua se dipende se sono in città, dammi un po' più forte del normale, dammela la potenza. Ecco, è più forte del normale, così può andare. Da lontano dovrebbe andare bene. E ti occupa come prima, meglio degli altri del microfono? Non c'è paragone. Gli altri erano mondezza. Beh dai, continuate, chiudo tutto quanto e poi do dei consigli a Luca con l'altro apparato, così ti dico come sta uscendo. Grazie Natale, ci sentiamo tra poco, dai, ciao a tutti. Ciao, ciao. Robe. Antonina. Chi è? Lo lascio così questo 440, come modulazione. Benissimo, va benissimo. Ok, grazie. Gesù! Bravissimo, perfetto. Parco trova anche a me, intanto siamo la giornata in controlli, bene sto uscendo la tariffa. Ma fa culo! Ti mi hai dato il controllo, basta! E anche di nevola, quindi se ci sei andato male, ti lo dico, mi fa aspetto che ci andrà male. Quello che ci vedi non ti dico nulla. Chiappa di rogero, adesso per quello vado all'acqua di Lourdes. E mi sa che ci vado anch'io. Natalino non è un controllo di radio.